Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Pronti? Iniziamo? Buongiorno, buongiorno a tutti. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Martello pneumatico 100 decibel. Sirena 100 decibel. Questo è bello, eh? Rombo di un motore, di una moto, 110 decibel. Let's dance. Discoteca 110. Questo è l'aereo che ha preso Pardo, 120 decibel. E questa, signori, è la Turk Telekom Arena, dove gioca stasera la Juventus, 137,6 decibel. Scrive: speriamo che Mancini mandi a casa Conte. 349-238-6666, oggi vale tutto. Tutti convocati, 800240024, Franco Piantanida in redazione, Fabio Cantadore in regia, Pierluigi Pardo a Istanbul. Ciao! Ciao! Sei pronto? Portati i tappi per le orecchie? Guarda, vorrei che ci fosse, non so se ti dà la televisione, insomma, l'immagine in questo momento, 16° piano. Una serie di clamorosi palazzi in costruzione e un nevischio che è una cosa fuori dal mondo. Cioè una nevischio? Cascata di pioggia mista a neve. Dai. Con un vento pazzesco, no, no, bellissimo, diciamo, potendo stare in camera a guardare un film. Sì. Però no, per giocare a pallone, diciamo, c'è una condizione atmosferica migliore. Sì, ma per stasera era prevista pioggia mista a neve. E le previsioni si stanno assolutamente verificando con un vento che è veramente pazzesco. Ma, quindi tempo da lupi, tempo da turchi. Tempo da lupi, cose da signor turchi. Signor Mancini. Sì. Senti, c'è chi scrive anche stasera si tifa per gli italiani, dai mancio. Il messaggio di Luca non lo posso leggere, però è carino. C'è chi saprebbe dove metterci il martello pneumatico. Parlamentari? Non decibel, ma centinaia di cretini senza pari. Ciao, smetto. Kiss Max San Gimignano. Va bene, ciao. 800240024. Comunque, al di là di questo, di uno stadio che onestamente fa impressione, anche se non bisogna enfatizzare troppo queste cose, perché ha ragione Buffon, può caricare anche una squadra molto esperta come la Juventus. E comunque Buffon ha detto: vabbè, ma io non ho mai visto un tifoso fare gol, e questo è vero. Insomma, io penso che a certi livelli il fattore ambientale condizioni fino a un certo punto abbastanza relativo. Ma sì, guarda, io vi ricordo l'anno scorso Glasgow, che chiaramente Celtic Juve, ottavi di finale di Champions League, mi ricordo si facevano assolutamente gli stessi discorsi, identici discorsi. L'ambiente, le partite, appunto, i tifosi non segnano. Tra l'altro, ormai nel calcio delle televisioni, con tutti i difetti possibili, ovviamente con tutta la spoetizzazione che ci può essere stata, però soprattutto in Champions League tu hai delle situazioni ormai standard. Sì. Gli stadi sono stati, cioè non siamo più come negli anni 80, dove potevano esserci cose anche un po' colorate al limite del regolamento. Non siamo più nei racconti dell'autobiografia che ho scritto con Eto'o, che prima della finale di Coppa d'Africa c'erano gli spiriti, era impossibile scaldarsi perché gli tiravano di più. Cioè sì, è un altro mondo la Champions League da questo punto di vista, per cui per quanto i 52.000 è un mondo bellissimo, secondo me è un mondo bellissimo, un mondo, no? Ma sicuramente bellissimo. Si sentirà, ci sarà una grande spinta dal punto di vista psicologico, certamente questo potrebbe aiutare il Galatasaray, potrebbe mettere paura la Juve. Però siamo nell'ambito di un'assoluta standardizzazione ormai delle condizioni di partenza. Sì, non c'è dubbio. Sicuramente. Sarà un meraviglioso ambiente, ma sicuro. Pierluigi, poi gente che ha giocato finali mondiali, gente che ha giocato ad ogni latitudine. Vabbè, lo stadio farà parte di questa serata, una serata in cui ci sono due squadre che rischiano un fallimento abbastanza clamoroso, perché lo sarebbe certamente per la Juventus in caso di eliminazione, ma lo sarebbe anche per il Galatasaray, che comunque ha speso una barca di quattrini, non certo per essere eliminato al primo turno di Champions League. Intanto oggi volteggiano solo gufi. Ho sognato Gala-Juve 1-0 al 90esimo in fuorigioco e Napoli-Arsenal 4-1 al 90esimo, scrive un ascoltatore che non si firma. Poi 4-1, sì. Benitez prima ha detto dobbiamo fare tre gol all'Arsenal, li faremo, sì, il problema è quanti ne prendete. Non so se gli è stato chiesto. C'era l'ipotesi 7-4, ne parlavamo con Solano. Sì, io voto 8-5, ma comunque sono discorsi che arrivano domani. Tutti a guffare e a mangiare kebab. Occhio che magari domani vi brucia il bus del Gnaru. Marco. Guarda, io ti dico una cosa, ti dico che ne parlavamo con quella signora, mi ricordo quella signora un po' anziana che ci ha dato quella lezione di civiltà, la signora Sarda, certo, simpatizzante della Roma, se non ricordo male, sul fatto che bisogna rifare le italiane. Però alla fine io penso che questo è consigliabile, ma alla fine la cosa bella di questo gioco, ovunque nel mondo, è che ognuno fa veramente come cavolo gli pare. Quindi, sì. Nei limiti della ne civiltà. Ne ha tutti i diritti, ma certo, nei limiti della civiltà, no, ma sono anche cose simpatiche queste qui. No? Milan, recuperando il Napoli. Cioè, sì, Roberto interista da Belluno, io scrivo domani, almeno spero, buona giornata quasi a tutti, scrive Roberto. Dai, sono simpatico, voglio dire. Fa parte di questo meraviglioso gioco, come dice Arrigo Sacchi, perché forse lo sport è diverso. Salutiamo Arrigo. 800 24 0024, l'orchestra, gente, l'orchestra. Io saluto anche Giovanni dalla provincia di Napoli, che è in linea, che ci aspetta dopo il traffico. Tutti convocati. 50 volte mi è sembrato di vedere la faccia del caga sotto. Questo Luisito Suarez di sera a Tiki Taka. Pardon. Sì. Beh, insomma, ieri c'è stata anche una discussione quasi estetico-filosofica fra Telese e Mughini sulle due duellanti, no? Nel senso che Telese diceva che la Roma è in questo momento francese, champagnone, è romantica, mentre la Juve è nervosa. E aggressiva. Mughini gli ha detto che erano sciocchezze, però insomma è stato un momento divertente. Non è abbastanza vero, ma non, sì, è vero, ma non c'è, non è l'accezione vero, negativa, non c'è il giusto e lo sbagliato, ecco, non nell'accezione negativa per quanto riguarda la Juventus. La Juventus squadra di, possiamo dire, di grande cattiveria agonistica, di grande ardore, insomma, di tu la parola. La Guarda, Juventus identifica in questo modo, ma gioca anche un gran calcio. Una delle caratteristiche più straordinarie di qualsiasi sportivo e di qualsiasi persona sia la tigna, la grinta, la voglia, la determinazione, l'ambizione, chiamiamola come ci pare. Per cui la garra, la cazzimma. Se la Juve è questo, e lo è, poi sono d'accordo con Conte quando ogni tanto mette i puntini sulle i e dice che non è soltanto questo, perché il rischio è che con il carattere della Juve, con l'atteggiamento di una squadra che non molla mai, poi si sottolinei questo e si perda di vista invece l'eccezionale quantità di gioco. E ha ragione. Però detto questo, io penso sempre che la caratteristica principale della Juve, fortunatamente per i tifosi della Juve, sia proprio questa incredibile capacità di non mollare mai, di non abituarsi mai alle vittorie. Questa è una squadra che potrebbe, per esempio, il campionato potrebbe essere scarica, perché ha vinto gli ultimi due campionati, e invece ha continuamente voglia. Insomma, l'altro giorno il nostro portocampista, che non fosse sapito, al 92esimo di Bologna-Juve, ci ha detto che dopo il 2-0 della Juve, che quello che stava dicendo contro la squadra era: non prendiamo gol. Sì, certo. Il gol sarebbe stato inutile. È una piccola frase, è un virgolettato, però che ti racconta di come interpretano le partite, la grandezza caratteriale e psicologica di questa squadra. Giovanni, buongiorno. Complimenti entrambi, soprattutto a Luigi Pardo per Giorgia Rossi, la più bella bocca d'Italia, senz'altro. Complimenti a Giorgia Rossi. Davvero, io sono appassionato di calcio, però ho pure quella passione lì, però davvero non so Sky come ha fatto a farcela sfuggire. Comunque, volevo dire che il tifoso della Juve è la mia unica religione, e quando ci tifano contro è la cosa più bella. Io tifo contro tutti in Italia, contro la Nocerina, contro il Napoli, contro l'Inter, contro tutti, solo la Juve. Giovanni, perché... ma mi dico una cosa, dove si trova adesso? È in mare? Sì, sto al mare, sì. Dove, cosa stai facendo? Dove? A San Marco di Castellabate. È in barca? Sì, sulla barca, sì. Cosa sta facendo? Pesca? Sto in barca, sì, aspetto la partita di stasera. In barca aspetta la partita di stasera. Beh, meglio di così, difficile, eh. Sognando Giorgia Rossi è un poco la Juventus. Grandissimo Giovanni, grandissimo Giovanni. La priorità mi sembra Giorgia Rossi è un pochino la Juventus, eh? La squadra di calcio, la barca e Giorgia Rossi. Va bene, salutiamo Giorgia Rossi, la Juventus e la barca, eccezionale. Io ne ho un sacco di messaggi, tra l'altro, chi mi scrive contento di essere antipatico, chi vince tanto è sempre antipatico, beh, e sono in minoranza i tifosi della Juventus, perché la stragrande maggioranza è per i gufi. Comunque, cosa ne pensi di quanto detto prima Pierluigi, cioè che questa sera è una partita che corre sul filo del fallimento per tutte e due le squadre? Sì, Mancini è sotto pressione, anche se dice fa niente se usciamo. Sì, beh, certo, però Mancini è veramente sotto pressione qui sui giornali, con i tifosi, perché insomma la svolta non c'è stata. Paradossalmente la Juve è stata l'unica che può aver pensato che ci sia stata la svolta con Mancini, perché Juve-Galatasaray, al di là degli episodi, fu una partita anche equilibrata, nella quale comunque il Galatasaray giocò bene, passò in vantaggio. Insomma, Mancini diede subito la sensazione di aver cambiato tutto rapidamente. Poi invece, se guardiamo anche il cammino in campionato, questa è una squadra distante dal Fenerbahce, una squadra che si è faticato parecchio, che finalmente dopo 14 partite contro l'ultima in classifica l'altro giorno è riuscita a non subire gol. Quindi stiamo parlando di una squadra che ha dei problemi, però insomma è chiaro che anche se lo scorso anno sono arrivate tutte e due ai quarti di Champions League, e anche se il Galatasaray ha speso molto, insomma l'eliminazione per la Juve secondo me sarebbe più grave, perché sì, la Juve è più forte, e quindi sì. Però voglio dire, adesso non dobbiamo neanche pensare a queste. No, ma anche perché non voglio neanche pensare a quello che può succedere. Cioè, teoricamente, e ovviamente qui faccio gli scongiuri e non c'è bandiera che tenga, potrebbero finire fuori tutte e tre. Non è mai successo, se non ricordo male, in 26 anni di fasi a gironi della Champions League. Sì, mi riferisco alle nostre squadre. Alessio Tacchinardi, eccolo qui. Buon pomeriggio. Ciao Alessio. Abbiamo sentito ora un ascoltatore di Napoli, tifoso della Juventus, che sta aspettando in barca la partita. Ci telefonava dalla barca e ha detto: sono qui e penso a Giorgia Rossi e un po' anche alla Juventus. Pensa come sta bene. No, che tra l'altro ha detto una cosa giusta, sarebbe veramente un fallimento, secondo me, se la Juventus, ma anche l'italiana, perché possono uscire tutte e tre, quindi insomma c'è da augurarsi da italiani, non da juventino, da interista, da milanista, da napoletano, che veramente le squadre italiane facciano un salto di qualità in Europa, perché ci vuole che il nostro calcio aumenti un po', alzi un po' l'asticella del loro livello. Ale, meglio di così, però la Juventus non poteva arrivare a questa partita, ovviamente a parte il problema di Pirlo, però come condizioni, come tutto quanto, insomma, in un momento migliore, non c'era un momento migliore per giocarsi una partita così importante? Sicuramente non c'era un momento migliore, ma non c'era un momento da arrivare in queste condizioni, nel senso che non doveva la Juve arrivare all'ultima partita in un girone, secondo me, non tanto difficile da giocarsi il dentro fuori, la vita o la morte a livello calcistico, sto parlando, perché ha fatto un girone di qualificazione non all'altezza della Juve. Sicuramente però si presenta nello stato di forma fisica e mentale alla grande, nel momento più importante della stagione, secondo me, perché dovesse uscire sarebbe un movimento al 100%. Manca un giocatore straordinario che Pirlo, però insomma la Juve ha dimostrato anche nell'ultima partita di avere veramente testa, gambe, cuore ad altissimi livelli. Speriamo che faccia una grande partita e vada a imporre la propria personalità. Anche se, Pier, ha ragione Tacchinardi, no? Se perde Istanbul e chiude il girone con 6 punti in 6 partite, e finora la Juventus ha beccato 8 gol in 5 partite contro i 10 in 15 partite in campionato, c'è una ragione in questo? Sì, no, ma guarda, io ti dico assolutamente, la Juve si era giocata male questo girone, che è il motivo per il quale secondo me oggi può essere relativamente ottimista, perché comunque se prendiamo la partita dell'andata... Sono due cose diverse, sono proprio due squadre diverse, la Juve di oggi e la Juve del 2 ottobre. Quindi Però insomma degli errori sono stati fatti sicuramente, dal pareggio a Copenaghen al pareggio interno col Galatasaray. Sono state per le due partite, hanno condizionato il cammino. Io mi ricordo che all'indomani di quella partita già dicevo: tanto le prossime tre gare saranno inutili, si arriverà a Istanbul, ma non perché ci avessi la palla di vetro, perché era ovvio che si sarebbe arrivati a Istanbul all'ultima partita, bisognava solo capire se con due risultati o con uno. La sconfitta del Galatasaray a Copenaghen nella quarta giornata ha cambiato tutto di nuovo, per cui la Juve arriva con due risultati. È una condizione secondo me non negativa. Lo scorso anno è successo a Donetsk e la Juve brillantemente è riuscita addirittura a vincere la partita e è arrivata prima nel girone. Insomma, io credo che onestamente ci voglia grande attenzione, perché qualsiasi partita nei 90 minuti può riservare delle difficoltà. Detto questo, mi sembra che sono, no, comunque ci sono numeri strani, siano diversi, sì. Ecco, ci sono anche numeri strani intorno a questa partita. Come dicevo prima, 8 gol in 5 partite subite dalla Juventus sono un sacco. Tevez che non segna da 4 anni e mezzo. Alessio, c'è una ragione in questo? Ma è una cosa secondo me curiosa, quella che Tevez sia così tanto tempo che non che non faccia gol. Io penso che non sia mai un caso, però mi sono fatto delle domande, non riesco però onestamente a darmi tante risposte su perché Tevez sono così tanto tempo, perché io penso che Tevez, cioè penso che la Juve abbia un organico che in Italia è la più forte, però in Europa ancora stenta un po', ci vuole ancora più giocatori, più individuali con molta più tecnica che possono farti un po' più la differenza in Europa. Nel gioco collettivo della Juve in campionato ormai è devastante, in Europa non basta, ci vogliono anche delle individualità di fico, però onestamente Tevez è un'individualità importante, un giocatore che in qualsiasi momento ti può spaccare la partita, ha nei piedi comunque gol in diverse posizioni del campo, quindi non me ne spiego una ragione. Penso che stasera possa essere la partita di Tevez in un ambiente caldissimo. È vero che Buffon dice, è anche una bella battuta, che i tifosi non fanno gol, però io ho giocato là anche se era al vecchio stadio e posso dirti che è una bolgia, è veramente un posto molto caldo, però poi i giocatori vanno in campo e stasera penso e spero soprattutto che sia la partita di Tevez, perché la Juve deve cambiare un click nella testa a livello europeo, perché non è ancora la Juve che mi piacerebbe a me rispetto al campionato. Sì, ma veramente è così importante l'ambiente adesso? Quando giochi a quei livelli, giochi quel tipo di partite da tanti anni, davvero può essere condizionante quanto ti sta intorno? Beh, può essere. Guarda, io da ex calciatore posso dire che è anche molto stimolante, appunto, per anche la squadra del Sassuolo. Anche il tifo contro, quindi, è stimolante, certo, credo. Cioè, no, infatti è molto stimolante, però è anche vero che in una squadra di non grandissimi personalità, tranne un po' Drogba, un giocatore fantastico, e pochi altri, una spinta così forte, è vero che in casa hanno preso 6 gol dal Real Madrid, quindi non è che parliamo di fenomeni, però è una spinta importante. Sicuramente mi è piaciuta la dichiarazione di Antonio, 2 risultati su 3, ma andranno a fare la partita, perché la Juve non sa difendersi, andrà a giocare con personalità, e io spero che questa sia, oltre al pubblico, la parte che faccia cambiare veramente la mentalità a questa squadra, perché ha tutto per poter, non dico assieme col Bayern, però poter veramente fare dei gironi sicuro, eliminatori di più alto livello. Quindi questa penso che possa essere una partita della svolta per la Juve, anche perché se dovesse andare male sarebbe onestamente un piccolo fallimento. Sarebbe un fallimento, ma forse anche grande. Grazie Alessio. Ciao, buona giornata. Ciao, Alessio. Ciao. Alessio Tacchinardi. Pierluigi Pardo, stai lì e non ti lascio andare ancora per le vie di Istanbul. No. Diamo la borsa, poi chiacchieriamo ancora. 800 24 00 24, numero verde. Messaggi sono tantissimi, anche divertenti, dopo ve li leggo. Adesso è l'appuntamento con la borsa. La borsa c'è, ci sentiamo tra poco. Tutti convocati. Dunque, c'è Davide D'Alecce che chiede con insistenza di parlare di Quidditch. Lo faremo non appena sarà disponibile Harry Potter ai nostri microfoni. Ma poi c'è Alex che, cui piace molto una parola che è ridicolo, scrive: sei pieno di messaggi juventini ma leggi solo quelli anti e questo ti rende ridicolo. Vabbè, non è vero, perché li leggo tutti, non vedo perché dovrei leggere solo quelli anti, che pure sono in larga misura simpatici, per quanto possano essere simpatici, soprattutto ai tifosi juventini, messaggi di questo tipo. Poi lo stesso Alex mi scrive: la Juve sarà l'unica italiana a passare Napoli e Milan, sono di nuovo ridicole, perché come detto gli piace molto questa parola. Allora, facciamo il pronosticone? Facciamo? Sì. O faccio? Vado? Sì. La Juventus vince. Sì. Il Milan pareggia e il Napoli anche. Per me vince la Juve, vince il Milan, vince e il Napoli potrebbe pareggiare. Non lo so, il Napoli secondo me è una partita molto legata a quello che succede a Marsiglia, sì. Nel senso, 3-0 ci credo poco, per cui insomma, anche perché dovrebbe essere un 3-0 contro una squadra che se perde 3-0 va fuori, quindi insomma, non è, capisce, è proprio battere in maniera secca l'Arsenal 3-0, in questo momento molto complicato. Sì, è più difficile, Pierre, è molto più sottile. Pareggio con gol, certamente, è molto più sottile il filo su cui danzerà il Napoli per tutte queste ragioni e per il fatto che comunque si trova in un girone difficilissimo, l'Arsenal è una grande squadra, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sembra molto più viscido, molto più scivoloso il filo su cui camminerà il Milan, perché se va fuori, immagina dovesse andare fuori domani contro l'Ajax, potrebbe essere la notte della rivoluzione. Ti ricordi Zaccheroni dopo il Deportivo? Sì, sì, mi ricordo benissimo, dopo il Paris Saint-Germain, credo, se non ricordo male. Vabbè, ma comunque insomma, sono dettagli. No, io sinceramente credo che il Milan non debba fare una partita, ne parlava Conte a proposito della sua, il Milan secondo me non deve fare una partita di conserva, perché secondo me non è nella condizione mentale di poter correre sul filo. Il Milan secondo me è più forte dell'Ajax, se fa una buona partita con 90 minuti vince, se invece si mette lì a ragionare e dovesse trovarsi a 15-20 dalla fine ancora sul risultato di parità, secondo me insomma è ancora pieno di fantasmi questa squadra. C'è una certa paura che gareggia su San Siro, sì. Per cui meglio secondo me giocarsela senza fare ragionamenti, perché secondo me insomma l'avversaria non è così clamorosa. No, certo, poi normalmente il Milan in Europa sono meccanismi positivi che trova quasi automaticamente questi, cioè è raro che si metta a fare conti, è raro che provi paura in Europa, paradossalmente. Sentiamo cosa ha detto Allegri. E bisogna giocare una partita per cercare di vincere, per cercare di fare il risultato. Come se fosse una partita di campionato, perché quando si scende in campo non si gioca mai per cercare di pensare di fare un pareggio o una vittoria, si gioca sempre per vincere. Domani sarà così, la differenza è che domani il pareggio equivalrebbe a una vittoria, equivalrebbe al passaggio al turno, quindi la squadra deve stare serena, deve stare attenta, deve stare concentrata. Ma secondo te, Pier, se Milan esce dalla Champions, lo mandano via Allegri? Ma ci sono ottime probabilità, ma insomma adesso dai, cerchiamo di fare positivo. No, nel senso che secondo me sia Milan che Juve hanno davanti a loro una possibilità concreta di passare il turno. Insomma, io vedrei, ad oggi mi sento di vedere il bicchiere mezzo pieno, mentre il Napoli si è veramente complicato la vita a Dortmund, e quella era l'occasione, lo sapevamo, e fra l'altro il 3-1 ha complicato tutto, perché sarebbe stato 2-0 o 2-1, quindi insomma ha reso questa partita contro l'Arsenal ancora più complicata. Secondo me Milan si sta lentamente rimettendo in carreggiata, ha ancora degli spifferi soprattutto difensivi molto pesanti, però ha ritrovato Balotelli in condizione, Kakà è un giocatore diverso, completamente diverso rispetto a un mese e mezzo fa, insomma ci sono tanti margini, sì, per poter passare. Sì, come ha detto, un'esperienza internazionale, guarda quella maglietta, io ho sempre l'impressione, ho sempre la sensazione che in campo europeo un po' di timore reverenziale, sì, all'avversario lo metta. È vero, perché se tu pensi anche per esempio a quello che è successo l'anno scorso col Barcellona, d'accordo, il Barcellona è stato spazzato via dal Bayern, sappiamo bene come, questo ha rivalutato secondo me anche la sconfitta della Juve, però insomma in quella partita lì, me la ricordate, Milan-Barcellona, sembrava che dovesse vincere, sembrava che 0-0 fosse un miraggio, sì. Milan ha vinto 2-0, ha avuto comunque il palo di Niang al ritorno che avrebbe dovuto cambiare la storia, e insomma in relazione alla distanza tecnica che c'era in quel momento tra Barcellona e Milan, anche in quella circostanza ha tirato fuori il meglio, quindi sicuramente un po' questo discorso vale, anche se secondo me questo discorso valeva di più 2-3 anni fa, quando ancora c'erano tracce del vecchio Milan. Certo, qui siamo nel campo delle suggestioni, no? Siamo oggi, abbastanza oggi siamo, nel campo delle suggestioni. Siamo di fronte a una squadra che ha quella maglia, che si porta dietro questo carico di storia anche recente straordinario, ma spesso vestita da giocatori che di esperienza ne hanno poca. Certamente Kakà da questo punto di vista è un leader che torna a disposizione, Balotelli è un talento purissimo quando si sveglia bene. Insomma, per me Milan ripeto è più forte dell'Ajax e domani se non sbaglia partita passa al turno. Sì, sotto il vestito pochino comunque, hai ragione. Manuel, provincia di Modena. Buonasera, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. E volevo dare intanto il mio pronostico. Qual è? Vai. Milan vince, Juve pareggia, Napoli perde. Quindi ne passano due su tre. Secondo me ne passano due, sì. Perché il Napoli col Dortmund ha buttato via tutto. Comunque. Chiamavo per un'altra cosa. Praticamente, io sono un tifoso sampdoriano, molto anomalo, in quanto di Maranello. E volevo chiedere un po' a voi, anche a Pardo, come vedeva l'avvento del Santo Sinisa. Io non male. Mi sembra che la Sampdoria abbia già cambiato quantomeno linguaggio del corpo, quantomeno faccia, se non ancora. Vabbè, risultati. Domenica ha vinto la partita importantissima con il Catania. Santo Sinisa, cosa dici, Pier? Ma io penso che l'investimento della Sampdoria su Delio Rossi è stato clamoroso anche in termini economici. Praticamente si era buttato tutto su di lui e sul suo mestiere, sulla sua esperienza, e onestamente io ero d'accordo, perché comunque Delio Rossi mi sembrava una garanzia. Ha avallato secondo me quest'estate una campagna acquisti abbastanza complicata, per me la Samp rimane una squadra con dei problemi che deve risolvere a gennaio, altrimenti rischia di tutto. Sinisa sicuramente ha legato autostima immediatamente a questa squadra, che il nostro amico ascoltatore lo sa benissimo, ha bisogno di leader perché i leader storici, e lo si è visto anche nel lato della famosa recensione con Lucio Sei e Fred Pazzini, sono giocatori che alla fine non si sono rivelati all'altezza. Angelino Palombo, che è un bravissimo ragazzo, è stato un grande giocatore, chiaramente non è che ti puoi chiedere oggi di essere quello di 5-6 anni fa, anche se comunque è un giocatore che è stato recuperato, tra l'altro la proprietà degli Rossi. Castaldello fa il possibile, ma insomma... Non sono leader. Manca un po' di stima dorsale, secondo me. Sì, hai ragione. Ma certo, se Gabbiadini esplode come abbiamo visto l'altro giorno col Catania, può cambiare tutto. Però secondo me la Samp non è ancora fuori pericolo e fa molto bene se a gennaio si cautela con 2-3 acquisti di spessore, più che altro proprio di personalità. Sì. 2-3 giocatori, quelli che si dice fanno reparto, non sono facili da trovare, ma servono se vuoi salvarti senza troppe paturnie. Pier, ti ringrazio, mi raccomando non prendere freddo, porti i tappi per le orecchie e copriti la gola visto che nevica. Ma niente, la salute. Adesso dopo decidiamo se calzamaglia sì o calzamaglia no. Tanto Alessandro su Twitter, da milanista vi ricordo che Benitez 3 gol li ha fatti in 6 minuti, attenzione. Ciao Pier. A dopo. Anche se non in questo stadio. Non in questo stadio. L'ascoltatore? Mario Napoli, buongiorno. Sì, pronto. Pronto, eccomi qua. Sì, che la sento, mi dica. Sento, buonasera, grazie di avermi deciso, diciamo. Sono da Napoli, sono Mario. E qui volevo riferirmi a Giovanni, quel pescatore che è in mare. Sì. Quando ho sentito. Niente, volevo dire che la barca si affondi, Dio cane. Ma che cosa sta dicendo? Francesco da Milano. Pronto? Pronto, dica. Ah, salve, sono Francesco, l'Anti-Allegre, grazie per avermi chiamato. Anti-Allegre? Sì, sono Francesco l'Anti-Allegre, tifoso sportivo milanista ma Anti-Allegre. Comunque, a parte questo, io mi auguro che stasera le nostre tre squadre passino tutte. Per il Napoli indubbiamente molto difficile. La Juventus ha un'arma in più, a mio avviso, che è... per l'antipatia calcisticamente che provo per Conte come allenatore e non come uomo, gliel'ho già detto, a Conte in più, cosa che invece io mi auguro a malincuore che il Milan perda, perché così finalmente si decideranno a mandar via Allegri. Ma secondo me mi sembra eccessivo, no? Nella conferenza stampa che ha fatto e che sta dicendo, no, non sa neanche lui quello che dice, a mio avviso. Quindi, ma in che con senso? Tutto il rispetto in che senso? Provo, cosa ha detto di quello che sconvolgente secondo lei? Giochiamo come in campionato. Giochiamo, ma io mi auguro di no, perché se giocano come in campionato non azzecca un cambio. Distruggi i giocatori, insomma, Zenta, chiedo scusa. Abate, no, lei De Siglio, no, un attimo, le chiedo perdono. Abate, De Siglio, Montolivo, Balotelli, El Sarawi, 5 nazionali, Kakà, chi è quell'allenatore al mondo che non vorrebbe avere questi 5 giocatori in squadra ed avere 5-6 punti in più? Non è in grado di allenare il Milan. Ma non guardi, è in grado. Io credo che Francesco, capisco quasi tutto quanto lei dice, condivido una parte, nel senso che secondo me quando ad un allenatore togli il potere sull'ascendente sulla squadra, come è stato fatto con Allegri, meglio cambiarlo, perché sennò non vai da nessuna parte. Da lì ad augurarmi, se lei è tifoso del Milan, di uscire dalla Champions League per farmi andare via l'allenatore, mi sembra un ragionamento un po' contorto. De Sciglio è appena tornato, Balotelli ha avuto i suoi alti e bassi, le sue squalifiche, i suoi infortuni, eccetera eccetera. Kakà è stato recuperato a dei livelli che, io lo ammetto, lo sapete bene, nemmeno pensavo possibile, anche se mi sembra un po' in riserva di benzina. E Sharawi è stato fuori a lungo. Dunque, tutti questi, di fatto Allegri, questi giocatori di fatto Allegri in questa stagione li ha avuti ad intermittenza, come le lucine dell'albero di Natale. Strade. Tutti convocati. Abbiamo fatto un lungo viaggio pieno di insidie per arrivare fino a qua, ma la tempesta non ci ha fermato e il gruppo è rimasto straordinariamente compatto. Per questa partita ci siamo allenati duramente. Il piccolo Giovinco si è allenato e combattuto come un vero uomo. Allora mister, posso giocare? No Seba, è troppo pericoloso. Ricordati, sei ancora un bambino, vai a giocare coi gormiti. Carlito Stevez, domani punteremo tutto su di te. Sei pronto mister? Ma da quando sono qua la Juve è puntata a un caso di gobba de merda. Affronteremo un avversario molto forte, da sconfiggere in ogni modo. Questo è Drogba! Questi sono gli autogol. Nostri amici, bravissimi imitatori, si sono inventati questo spot sulla via di Istanbul, veramente meraviglioso, almeno secondo me è piaciuto molto. Cosa dite? 800 24 00 24. C'è un ascoltatore che via SMS risponde a Francesco scrivendo: ma cosa dice, il Milan è una squadraccia, più di così non si può fare. Beh, insomma, io ho sotto gli occhi la classifica e dico che il Milan, più di questi 18 punti con Parma e Cagliari, un punto meno di Genoa e Torino, 7 punti in meno del Verona, beh, qualcosina in più si poteva fare. Cioè, non mi sembra una squadra da parte bassa della medio bassa della classifica. È chiaro che il passaggio alla fase a gironi darebbe un po' più di senso, un senso un po' più compiuto a questa prima parte di stagione, qualche prospettiva in più, però non mi sento di dire che il Milan non poteva fare più di 18 punti nelle prime 15 partite. Matteo, Luca, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Senta, io volevo, sono tifoso della Juve, abbonato alla Juventus Stadium, e sento un po' dire in giro che in caso di, lo dico prima così a scanso di equivoci, in caso di non passaggio del turno, fallimenti e tutte queste cose qua, chiaramente una figura bella non sarebbe, però a livello, diciamo, sportivo, le possibililità di vincere la Coppa sono zero. Cioè, no, però Matteo, turno, cioè, a livello sportivo, cioè, visto che stiamo, magari? No Matteo, però a livello sportivo, visto che stiamo parlando, a livello sportivo conta anche la strada che riesce a fare e come riesce a farla. Onestamente, per la Juventus, visto l'organico, viste le premesse, viste le ambizioni, un'esclusione al primo turno con 6 punti, perché di fatto con 6 punti, cioè, se l'evento dovesse perdere stasera rimarrebbe a quota 6, esclusa dalla Champions in un girone come questo, beh, sarebbe un fallimento sportivo, sì. Il